Il punto di Stefano Folli. Lasciamo stare la candidatura europea del ministro degli esteri Federica Mogherini, che forse è ancora in campo o forse no. In ogni caso lo vedremo entro agosto. Quello che stupisce è un altro aspetto. L'Italia, come noto, detiene la presidenza dell'Unione e anche per questo ci si aspetterebbe un profilo alto sulla crisi internazionale che il mondo sta vivendo, dall'Ucraina al Medio Oriente, il che vuol dire una presenza non impalpabile, un'iniziativa sul piano europeo, una capacità di coinvolgere le varie capitali. In altri termini, uno sforzo di dimostrare che questa presidenza semestrale non è solo l'occasione per un paio di discorsi di maniera e per la spartizione delle nomine. Giustamente il Presidente del Consiglio Renzi ha parlato di recente della necessità di dare contenuti nuovi all'Europa. E quale migliore occasione per farlo della politica internazionale solcata da lampi di guerra giusto ai confini dell'Unione? Tanto più che l'ambizione dell'Italia, ufficialmente annunciata, è proprio quella di guidare la politica estera. Allora tanto vale cominciare prima che sia troppo tardi.